Friuli nel mondo, 196esima trasmissione dedicata agli emigrati, passerella di autori friulani. Vi trasmettiamo, cari amici radioascoltatori, alcune recenti canzoni di musicisti e parolieri nostrani. Sono componimenti melodici su testi in friulano, semplici e tradizionali, esaltanti il Friuli, la sua gente, l'amore sereno, gli affetti più cari e la gioia di vivere. Con l'orchestra di Virginio Feruglio ascoltate Mandi di Degano, con la voce di Ilva Valusso e Claudia Del Tin. Galdino Turco canta Volesi Ben di Candotti Paroni. Troppi non mi si resti e di su non le cuie, ma la vita è tanto dura, su metti si a resonar, su metti si tui d'accordo cussi mio si vivarà. Sempre che la vita hai e fate, fate per amare. E parchest, quindi sei fradis, e volessi, e volessi. Si a resonar, su me dixi, tu d'accordo, cussi mio, si vivarà, cussi mio, si vivarà. Parte di Savoia, interpretata da Galdino Turco. Mar, le nasuti li friu, e come un zardin al par, sottili cile senza nu, ed è chiar niei uffin all'ignà. Simpli al svole le biele chianda, te soi vignu di lontan, mare mio di la gioventù, li spielezis da lui, e partiti ninine mamma. Une sole ne bussadine che chiarezzi il mio cuore, ed è chiar niei fin all'ignà. Simpli al svole le biel chianda le fure là. Pare te, sole pare te, soi vignu di lontan, pare mio di la gioventù, li spielezzis da lui. Perditi, ninine, mamma, parte soi vignu di lontan. Sol parte soi vignu. Ed ora vogliate ascoltare Il Vavalusso in Amor Seren di Scozziero Carminati. All'era il mio fantate compagnie, un danzere in furlan tanto ammirato, o imbalato in coppie la furlane, un film di simpatie non sale as. Manance io partieno eri brutte, clare di muse, scure di chiavei, le cotolute come un bra di rose, se un fazzoletto di sede dai blu miei. E intanto che si sgurlava, che si saltava, che si wiccava, e l'armonica suonava insieme con l'irò. E no, si morosava, si cisicava, si scherzottava, e culta si compagnava l'armonica l'irò. Tutti noi si sevi in vince ben cabali, mi tussi insieme per improvvid bon, e lui birbando al pala riverenze al mi bussava improvvid per da bon. Io lo lasciavi fa e mi plase l'amor la mazzere. E intanto che si sgurlava, che si saltava, che si wiccava, l'armonica suonava insieme con l'irò. E no, si morosava, si cisicava, si scherzottava, culta si compagnava l'armonica l'irò. Ed infine Furlanie in fieste di Candotti Zuccolo, cantata da Italo Nicoletti. Insieme a noi. verso, bramai che vegni l'ore di tornare insieme a Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.